Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Insargante del traghettatore, buongiorno. Cominciamo subito con una notizia che viene dal Friuli. Vi parliamo di EcoCloud, che è un'installazione gonfiabile che ha un titolo: semplici scelte, grandi cambiamenti. L'obiettivo è riflettere sull'ambiente e sull'importanza della raccolta differenziata. Accanto ad EcoCloud c'è anche un video box, che è uno studio televisivo mobile che raccoglie video e interviste ai cittadini sulla gestione dei rifiuti in Friuli Venezia Giulia. Oggi a Gorizia in Piazza Vittoria e anche a Udine, dal 4 al 5 maggio invece in Piazza Libertà. E con noi Don Mazzi, buongiorno Don Mazzi. Ciao, ciao, buongiorno. Fondazione Exodus non ha bisogno certo di presentazioni, invece ha bisogno che si ricordi il progetto La Casa dei Ragazzi, e vi dico subito un sms che è 45504, e adesso ci spiega Don Mazzi a che cosa serve raccogliere questi fondi. Ha cambiato molto il panorama dei ragazzi, che dei dipendenti, delle pluridipendenti, perché fino a ieri i dipendenti erano i tossiconi che si facevano di eroina, eccetera, eccetera. Oggi invece comincia molto presto, soprattutto alcol, anfetamine e coca. E quindi bisogna che arriviamo soprattutto prima che arrivi questa bestialità che distrugge i nostri figli. Diciamo una cosa, Don Mazzi, quando, per adolescenza che età è? Tanto perché tutti si rendono conto qui, di questo qui problema. Purtroppo abbiamo già ragazzi di 11 anni, va bene, che vanno in coma etilico, capito? A 11 anni, il pomeriggio, finché sono a casa, non hanno nessuno, la mamma a lavorare, il papà a lavorare, la nonna poverina non va certamente a pensare queste cose, o la tata. Per cui incominciano scherzando e poi succedono cose del genere, per cui dobbiamo, certamente non puoi mandarli in comunità queste, quindi abbiamo inventato, l'ho chiamato Oratorio 2000, cioè case giovanili dove si canta, si fanno i compiti, si fa il weekend, molte volte portiamo la famiglia intera, in modo che attraverso il gioco, l'amicizia e l'incontro con uno psicologo, ma con qualcuno che è di psicologia, non certamente c'ha la cravatta e l'aria dello psicologo, ma che c'è un'area amichevole e amicale, che possa recuperare prima possibile. Per quello dico, dobbiamo arrivare prima, 45504, dobbiamo arrivare prima, perché l'adolescenza è il momento più interessante, e se arriviamo prima noi, forse salviamo famiglia e anche ragazzi. C'è un'iniziativa precisa, c'è un'iniziativa fisica, la casa dei ragazzi, dove si trova e com'è strutturata? Abbiamo ristrutturato completamente la comunità, che era una comunità allora classica, adesso è diventato un centro giovanile, quindi abbiamo fatto sale di musica, sale di computer, una biblioteca, una piccola sala per ripetizioni, per far recuperare questi ragazzi la scuola, perché non voglio assolutamente che perdano l'anno scolastico, perché sarebbe una doppia sconfitta, la sconfitta con la perdita della stima delle famiglie e purtroppo anche la sconfitta scolastica. Per cui tutte queste cose messe insieme le ho chiamate Oratorio 2000, la casa per i giovani, e quindi abbiamo buttato giù e tiriamo su. Ecco, questa la famiglia, a proposito di famiglia, Don Mazzi, forse non sempre le famiglie riescono a capire questa cosa, sono un po' d'ostacolo forse per aiutare questi bambini. Ma sai, non possiamo che far capire le famiglie cose che non capiamo nemmeno noi che siamo specialisti, quindi le famiglie poverette si trovano di fronte a situazioni normali, fino al giorno prima era un bambino, una ragazzina semplice, innocente, il giorno dopo si trovano davanti a questi casini, per cui dobbiamo dare una mano alle famiglie, colpevolizzarle di più, ecco perché noi portiamo le famiglie intere a passare il weekend, qualche settimana, e vedremo anche di formulare meglio l'estate quest'anno con queste famiglie. Bene, grazie Don Mazzi, ricordiamo l'SMS 45504, e fino a domani a mezzanotte è possibile contribuire. Grazie Don Mazzi. Grazie a voi. Ciao, ciao, ciao. Grazie. Chiudiamo con una notizia un po' curiosa: i centurioni romani sono stati, come dire, al centro dell'attenzione pubblica opinione per la vicenda degli abusivi ai fori romani. Oggi invece ve li segnaliamo perché sono arrivati i centurioni ufficiali che, al grido "una foto, un sesterzio", raccolgono fondi e invitano alla donazione di sangue organizzata per IME, per la Croce Rossa Italiana. Questo è tutto per la puntata di oggi, grazie di averci seguito, grazie ad Anita Panizza e Gian Gabriele Lombardi in redazione, e a Pietro Lacorte in regia. Alla prossima.